Dischi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Il viaggio di Picchi di Frequenza prosegue nella puntata 81 con le notizie d'alta quota come di consueto, la seconda parte dello speciale fatto dal vivo al Burida di Genova, questa volta in compagnia del progetto 20K, per andare a concludere in compagnia di Monica della libreria Monte in Città di Milano, che presenta la sua recensione. Anche la puntata 81 di Picchi di Frequenza, nonostante una voce piuttosto nasale, non può che aprire evidentemente sulle news della settimana. Andiamo a incominciare subito sul trash da Montagna.tv per un brano dal titolo Adamello, vetta sacra della patria. Prima fanno i caduti e poi le ricordano in tutte le guerre. La voce, andiamo a recuperare così la testimonianza di Roberto Bontempi, presidente dell'associazione Impronta Camuna, promotrice dell'iniziativa. Abbiamo recentemente avuto il benestare dello Stato Maggiore della Difesa che ci ha concesso, sentite, udite, udite, l'utilizzo del suo logo. Un grazie sentito va anche al generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa e dalle scorse ore presidente del Comitato Militare della UE. Intorno all'iniziativa qualche polemica, dal momento che durante la celebrazione dovrebbe essere steso un tricolore lungo un chilometro. E via discorrendo. Mentre ci spostiamo su dislivelli.eu per due motivi. Il primo, è uscito il PDF, scaricatevelo dal loro sito, con la rivista mensile del mese di novembre, ormai già da qualche giorno, e un brano invece appunto di una settimana fa dal titolo L'idroelettrico ai tempi dei cambiamenti climatici. La più antica e importante fonte rinnovabile del nostro paese. Dalla fine dell'Ottocento questa tecnologia rappresenta una fonte consistente della produzione energetica elettrica. Fino agli anni 60 l'80% del fabbisogno era soddisfatto da questi impianti. Oggi, nonostante il passare dei tempi, pari al 15-16% del totale netto, va rilevato però che l'idroelettrico oggi sta attraversando una fase critica e delicata. Le condizioni attuali della risorsa acqua sono modificate ed evidentemente alla prova dei cambiamenti climatici. Gli eccessivi prelievi con cui con una certa faciloneria si è lavorato negli ultimi anni non sono più possibili, anche per via della trasformazione appunto della materia da parte dell'Unione Europea. È un approfondimento un po' tecnico, però se vi interessa, anche perché ci ha legato l'omonimo dossier di Legambiente, ve lo consiglio, l'idroelettrico ai tempi dei cambiamenti climatici. Torniamo ancora sulle notizie improbabili d'alta quota, perché Gianni Stablum, nuovo presidente della Carosello Tonale S.P.A., sostiene che un nuovo bacino in Albiolo sia la priorità. Per chi di voi frequenta il gruppo dell'Adamello Brenta, siamo sul ghiacciaio sostanzialmente del Presena. Grazie a Giacinto Del Pero, presidente storico della società, abbiamo realizzato cambiamenti importanti, soprattutto appunto nella zona del Presena. La società ha altri progetti che porterò avanti in prima persona. La priorità è senz'altro un nuovo bacino da 120.000 metri cubi per l'innevamento delle piste nella zona della Valle Albiolo, in territorio trentino. Realizzeremo un lago superficiale a 2.000 metri di quota sopra l'ospizio di San Bartolomeo, con l'obiettivo di riuscire ad aprire all'inizio stagione anche qualche pista al passo tonale come alternativa a quelle sul ghiacciaio del Presena. Cioè, visto che non c'è più sostanzialmente il ghiacciaio del Presena, l'Adamello non sta messo tanto bene e ai 1.800 rotti metri del tonale non si scia neanche a pagare, allora si realizza un bel, almeno nei progetti, lago a 2.000 metri quadrati, perché la priorità è assolutamente quella di fare sciare i turisti invernali. Costruiamo l'alveare, il crowdfunding di un rifugio per l'ape. Questa non è una notizia proprio nuova, mi rendo conto che sto battendo sull'argomento, però anche sul Manifesto è uscita una lettera aperta da parte dell'Associazione Proletari Escursionisti Sezione Capitolina. Come sapete, il crowdfunding ha l'obiettivo di raccogliere circa 15.000 euro per rifare una parte della struttura del rifugio appena preso in gestione a Poggio Catino. C'è da rifare impianti elettrici, idraulici, una parte del tetto. È tutto scritto e dettagliato, tra le altre cose, in questo articolo scritto per il Manifesto. Costruiamo l'alveare, il crowdfunding di un rifugio per l'ape. Come Ape Roma siamo tra i 15 vincitori del bando Impatto più 2017 con il gruppo Banca Etica. Il progetto, che chiediamo di sostenere con una donazione, riguarda la ristrutturazione del rifugio l'alveare sito in località Poggio Catino, provincia di Rieti, tramite il raggiungimento, e l'abbiamo detto, di 15.000 euro. Lo stabile, che abbiamo incomodato d'uso pluriennale, è composto da 3 immobili in stato di abbandono da 5 anni, di cui la struttura principale ospiterà le attività, mentre le altre 2 saranno adibite al pernotto. Non arrivo fino in fondo, però voi dovete andare sul sito di Produzioni dal Basso, cercare il crowdfunding di Ape Roma e fare una donazione. Ce ne sono tanti, forse troppi, di crowdfunding. Se ne parla tanto e si donano pochi soldi. Quindi, se volete dare un contributo concreto ai nostri amici di Ape Roma, questo potrebbe essere il buon momento. Uno stacco musicale e poi andiamo a entrare nel vivo di questa puntata, appunto, con la seconda parte del live di Picchi, registrato ormai 2 settimane fa al Buridda di Genova. Saranno con noi il progetto 20K. Ora tutto con te, se fare tutto ma tutto e niente e niente tutto ora è contato che io ero grande ma in fondo io lo so che sono un bimbo ora è contato che ho sempre vinto ma chi vince perde chi perde vince ora è contato che ascolto sempre ma ascolto solo me, dentro di me lo so. Ora è contato che rubavi soldi a mia madre non lo sa, mia madre non lo sa. Ora è contato che picchiavi deboli, i forti ridono, i forti ridono. Ora è contato che mio padre non ce l'ho, qualcuno soffrirà, l'ho già sofferto. Ora è contato che ti piaci solo a me. Ora è contato. Con Stefano e Vittoria entriamo nel vivo del secondo blocco di questa puntata speciale di Picchi di Frequenza dal laboratorio Buridda. Anzitutto, come gli diamo il benvenuto chiedendogli in qualche minuto di raccontarci che cos'è il progetto 20K. Il progetto 20K nasce da un'esperienza cominciata nel 2015 sul territorio appunto di Ventimiglia, nei Balsi Rossi, dove si era creato un campo informale completamente autogestito da assemblee di migranti e di solidali. I forti ridono, i forti ridono. Ora contato che mio padre non ce l'ho, qualcuno soffrirà, ho già sofferto. Ora contato che tu piaci solo a me. Ora contato che non vali niente. Ora contato esagerato. La particolarità di progetto 20K sta nel fatto che tutte le persone che partecipano attivamente al progetto vengono con un diverso background a contatto col progetto, quindi fa sì che questo crei una contaminazione perfetta tra magari semplici volontari che non avevano mai fatto esperienze politiche o magari compagni dei centri sociali, e quindi questo permette un grado di trasversalità, un modo ottimo per andare a toccare magari persone che non entrerebbero mai in contatto con certe dinamiche e situazioni. Gli obiettivi del progetto sono quelli di garantire beni di prima necessità ai migranti che si trovano al confine, che però non diventa il fine unico, perché è semplicemente anche questo un mezzo per portare una proposta politica e cercare di far autodeterminare le persone. Senti, il tuo non è esattamente un accento di questi lì della Costa Ligure, quindi raccontaci anche un pochino chi viene da 20K, insomma, dove trova casa questo progetto? Bah, nasce tra Bergamo e Milano, quindi come dicevo dall'esperienza del 2015, nel 2016, luglio 2016, tra Bergamo e Milano ci si è trovati e si è iniziato a parlare di un progetto continuativo sul territorio. e adesso dopo la stagione estiva siamo arrivati a coprire insomma città come Genova, Bologna, Trento, Torino, Milano e Bergamo, come dicevo, e è ricchissima questa, è importantissimo il fatto di provenire da varie situazioni in modo di continuare un altro obiettivo che è quello del progetto 20K, cioè la comunicazione all'esterno e l'informazione oltre che ai migranti ma anche solamente alle persone che vogliono essere solidali. Quindi qua al Critical Wine siamo con il banchetto, con l'olio prodotto a Ventimiglia e invece i salami e formaggi della Bergamasca. Sul territorio di Ventimiglia, oltre alle situazioni degradanti e non dignitose che vivono i migranti, oltre a sopportare tutto questo, devono anche sopportare i continui spostamenti. Spostamenti che non sono liberamente decisi da loro, ma sono le persone vengono trattate come pacchi postali, perché a Ventimiglia ci sono le deportazioni. Le persone vengono scelte in modo arbitrario, senza fornire nessuna informazione, e coattamente trasportate nel sud Italia, a Taranto, allo spot di Taranto, dove lì riescono a uscirne per ritornare a Ventimiglia dopo pochi giorni. Questo ci fa capire come in realtà il dispositivo frontiera e le norme che lo regolano non sono per niente utili né al controllo della frontiera né nel suo annientamento. Questo è per noi importantissimo, il fatto di contrastare quello che sono le deportazioni, perché è un chiaro esempio di non determinazione delle persone, mentre un obiettivo chiaro del progetto è quello di dare gli strumenti alle persone in grado che siano libere di muoversi ovunque vogliano. Abbiamo promosso questa puntata speciale di Picchi proprio per provare a raccontarvi il legame profondo che esiste tra la montagna, la passione per la montagna, la difesa evidentemente del suo territorio, ma anche il tema appunto dei confini, confini mobili quando si spostano i ghiacciai, confini duri quando si spostano gli umani, confini ancor più morbidi se si muovono le merci, confini difficili da passare oggi come un tempo se non hai le carte in regola. Quindi vi chiederei ancora così insieme a Vittoria anche di andare un pochino sul presente del progetto. Appunto, uno degli strumenti che utilizza il progetto per avere maggiore agibilità e legittimità sul territorio è stata un avvio di progetto di associazione che è appunto l'associazione IRIS. È iniziato questo lavoro con le realtà del territorio, quindi ad esempio Popoli in Arte, Melting Pot Europa, appunto per avere gli strumenti che portino al fine del cambiamento di questo sistema di blocco del movimento delle persone sul confine. Il progetto si chiama Progetto Eufemia, garantisce diversi strumenti concreti che appunto sono solamente dei mezzi, dall'assistenza materiale, quindi servizio di ricarica dei cellulari, vestiti, distribuzione di kit igienici, eccetera, a un servizio internet per l'autonomia anche nell'informazione, per garantire i contatti con le famiglie e parenti lontani. Ciò che è anche importante per il progetto 20K è l'autodeterminazione degli shebab, dei ragazzi che incontriamo, e quindi cerchiamo di garantire anche un'assistenza legale con il Legal Point, per anche semplicemente a scopo informativo o per avviare delle pratiche che possano aiutare i ragazzi nei loro progetti. Più di 200 volontari sono passati ad aiutarci nella nostra azione. Un nuovo nuovamente Stefano ai nostri microfoni per raccontarci che cosa è accaduto in settimana e poi qualche riferimento anzitutto ai loro contatti, dove potete trovarli, come potete entrare in contatto con il progetto. Ricordo a tutti che questa è una trasmissione che va in diretta dal Laboratorio Buridda, quindi se siete qui a Critical Wine, ci state ascoltando in qualcuno degli stanzini, passate pure a salutarci, a dare un occhio a che cos'è questa radio in diretta, che non è in modulazione di frequenza, in questo momento non è neanche in streaming, ma è botta di innovazione in onde medie, in diretta dal Buridda insieme al progetto 20K. Eccoci ancora qui, no, la cosa che volevo sottolineare era cosa sta succedendo, cosa è successo soprattutto ieri a Ventimiglia. Ieri a Ventimiglia abbiamo assistito a questo corteo organizzato da una pagina Facebook pilotata da una sola persona, di abitanti del quartiere di Via Tenda e di Roverino a Ventimiglia. Questo è un quartiere classicamente popolare che adesso, come un po' si vede un po' in tutta Italia, prende un'estremizzazione a destra, insomma, del pensiero e dell'ideologia, e infatti hanno sfilato per Ventimiglia insultando migranti e attivisti sul territorio, e questa è una cosa sconvolgente. Noi adesso abbiamo appena probabilmente mandato un comunicato, comunque nelle prossime ore arriverà un nostro comunicato, però ecco, quel territorio lì continua a essere estremizzato su posizioni di totale intolleranza. Noi appunto con lo spazio Femi e con la nostra attività giorno per giorno in strada cerchiamo di smontare questa quest'unica narrazione per darne una sul territorio, appunto territoriale, ma anche una nazionale, quindi sui quotidiani nazionali e su tutti i mezzi di informazione. Posso dare ancora un paio di numeri. Per adesso le persone che sono a Ventimiglia sono 500 nel campo Croce Rossa, tra cui 50 minori, tra minori e famiglie, mentre le persone che scelgono di non stare dentro il campo Croce Rossa e che dormono lungo il letto del fiume sono circa 200. Vedo già qua fuori Max che si prepara, però io prima di salutarvi vorrei chiedervi come mai per un progetto come 20K che si occupa di migranti e oggi qui ospitato in occasione della Critical Wine genovese anche per parlare, fare e portare in giro dell'olio. Quindi ti chiederei oggi in quale veste siete qui, qual è il progetto, di darci ancora così due informazioni sulla vostra esperienza. Allora, noi siamo qui anche perché insomma, il territorio di Ventimiglia è molto particolare, molto ricco di storia, e le valli insomma che percorrono quello che è il confine, quello che ci vogliono vendere come confine, è molto ricco di storia e insomma soprattutto agricoltura, piccola agricoltura. Quando facevamo la nostra attività sul territorio andavamo anche a cercare sentieri, proporre sentieri insieme ai compagni anche di Genova, e insomma scopriamo questi piccoli produttori locali di olio che producono per loro, insomma per le loro famiglie, per le piccole comunità, e noi siamo riusciti ad entrare in contatto con una persona di queste per portare il suo olio al Critical Wine insieme a delle tipicità, no, del territorio bergamasco, tra cui il salame e il formaggio. Ringraziando il progetto 20K e prima di salutarli gli chiedo nuovamente di condividere con noi i loro contatti, dove vi possiamo incontrare, dove possiamo conoscere lo stato di avanzamento dei progetti, dove possiamo sostenervi. Allora, di sicuro potete trovarci su Facebook, Progetto 20K, oppure sul sito internet, sempre con lo stesso nome, e abbiamo anche un numero che è sulla pagina dove potete chiamare liberamente, vi rispondiamo. E comunque, come ho detto, veniamo un po' da tutte le città del nord e centro Italia, quindi cercateci negli spazi sociali, nel mondo associativo ci potete trovare. Anche il secondo di tre contributi dalla edizione dal vivo di Picchi è andato. Ricordo che la prossima settimana avremo con noi Massimiliano Murgo, che ci racconterà dei suoi vini del Tortonese, la sua esperienza di operaio di fabbrica che invece si dedica all'enologia, alla produzione di vino, mentre oggi del crowdfunding dell'Ape abbiamo detto, volevo concentrarmi un attimo su un appuntamento. Parliamo dell'Ape Milano, parliamo di un giovedì sera, parliamo delle 19.30 come di consueto. Il prossimo 29 novembre avremo Italian Limes. Italian Limes è un gruppo di ricercatori che a cavallo tra intervento artistico, creativo e invece intervento di ricerca, hanno costruito un ragionamento sul confine mobile, ovvero su come i confini nazionali, quelli specialmente a cavallo dell'arco alpino, si modifichino, si spostino in maniera appunto permeabile al passaggio dei cambiamenti climatici, o meglio, al consumarsi dei ghiacciai che ne determinavano il displuvio, più o meno naturale, almeno in una certa stagione, e come invece appunto oggi questi confini si stiano spostando, materia che mette a repentaglio da un punto di vista evidentemente diverso da quello dell'ultimo contributo il concetto stesso di confine, di spazio liminale, di margine, di intercapedine se vogliamo, tra due stati-nazione in questo caso. Lo faremo appunto in compagnia di questo progetto che a cavallo tra intervento creativo e scienza si sta interrogando sul tema. Vi invito a dare uno sguardo al loro blog Italian Limes, a seguire l'evento sul sito dell'Ape, ape-milano.it, oppure sulla pagina Facebook Ape Milano, perché è un po' la seconda parte di quell'altro incontro con cui vi abbiamo tediato più di una settimana a proposito di stato di salute dei ghiacciai lombardi. Ne abbiamo parlato da un punto di vista appunto evidentemente legato alla glaciologia, alla geografia. Ritorniamo sul tema con un approccio un pochino diverso. Ora, appuntamenti ce ne sarebbero anche parecchi altri, però vi ricordo appunto che la settimana prossima saremo nuovamente in compagnia di Massimiliano per quanto riguarda la terza e conclusiva parte dell'intervento del Burid, mentre noi oggi ritorniamo con la seconda tappa di un'altra rubrica di questa nuova stagione di Picchi di Frequenza, che è quella in compagnia di Monica. Monica gestisce la libreria Monti in Città, tante volte vi abbiamo proposto qualche recensione, adesso lasciamo la parola a chi di libri di montagna si occupa in prima persona da parecchio tempo e forse anche un pochino meglio di noi. Ancora uno stacco musicale, questa volta con Nina Simone, e poi la parola a Monica. A little love, it slowly grows and grows, not one that comes and goes, that's all I want from you. A sunny day with hopes up to the skies, not a day that comes and dies, that's all I want from you. Don't let me down or show me that you care. Remember when you give, get your share. Secondo appuntamento presso la libreria Monti in Città a Milano con Monica, la nostra guida attraverso le pubblicazioni dedicate alla montagna, e oggi presentiamo un libro che Monica ha detto sarà difficile da presentare ai nostri ascoltatori, ma che per questo sarà, speriamo, ancora più interessante e stimolante. Il libro si chiama Anche le foche ridono, e che cos'è, Monica? Dici tutto. È un libro di comics, cioè di tavole umoristiche. In particolare questo libro è dedicato al mondo dello sci alpinismo. Il titolo è Anche le foche ridono, il sottotitolo lo sci alpinismo nei comics di Caio. L'autore appunto è Caio, nome d'arte di Claudio Getto, è un libro autopubblicato. È arrivato fresco in libreria in questi giorni, non ho potuto fare a meno di cogliere la proposta della sfida e presentarvelo, perché secondo me merita davvero. Remember when you give, you also get your share. Don't let me down, I have no time to wait. Tomorrow might not come, and dreamers dream. Ecco, lo stiamo sfogliando mentre ve ne parliamo ed è a pelle, molto, molto piacevole, molto simpatico e vale davvero la pena di essere letto, tanto più che come ci ha rivelato Monica poco fa, è un'autoproduzione, quindi a picchi di frequenza piace sostenere questo tipo di progetti. Grazie. Secondo te più o meno di che cosa, come possiamo aggiungere qualcosa? Vogliamo leggere magari un paio allora, di... Allora, guardate, molto brevemente, Caio qualche anno fa è uscito con una raccolta di tavole, di comics appunto, dedicate al mondo dell'arrampicata, e questo libro ormai è diventato un vero libro di culto, un classico moderno del suo genere. Quest'anno la sfida raddoppia e arriva una raccolta di tavole illustrate dedicate al mondo dello sci alpinismo. Dovete sapere che gli sci alpinisti sono considerati, o meglio, si considerano l'elite della montagna innevata. Sono tendenti alla perfezione, sono preparatissimi, sono molto precisi, sempre dotati di tutto quanto, molto attenti per fortuna al tema della sicurezza, ma forse proprio per questo motivo cadono poi in tic, idiosincrasie, paranoie, luoghi comuni che diventano inevitabilmente facile oggetto proprio di ironia, e Caio è stato bravissimo nel coglierli. Assolutamente sì, ripeto, è difficile alla radio rendervi l'ironia appunto che viene rappresentata da Caio, ma vi consigliamo davvero la lettura perché emerge, e tanto più è efficace quanto più, come diceva Monica, si rivolge a quel mondo dello sci alpinismo che lei ha definito un po' elitario, noi siamo contrari all'elite, e quindi ci fa piacere che con ironia si tocchi questo argomento. Guardate, molto semplicemente si tratta di una raccolta di una novantina di tavole realizzate con un tratto molto definito, colori vivaci e sgargianti, ci sono degli ampi sfondi chiari che possono essere bianchi o azzurri che danno immediatamente l'idea dell'ambiente aperto nel quale lo sci alpinismo viene praticato, e su questi pendii innevati candidi si stagliano chiarissime le figurine degli sci alpinisti, vestiti di tutto punto. Ogni tavola ha uno, massimo due fumetti con una sola battuta, al massimo due, molto taglienti, ma che arrivano immediatamente ad aprire il sorriso, se non la risata. E quindi siamo contenti di segnalarvi Anche le foche ridono, lo sci alpinismo nei comics di Caio. Se volete sostenere Caio, vi segnaliamo anche www.caiocomics.com, perché vi ricordiamo che questa è un'autoproduzione. E nel salutare Monica vi ricordiamo che potete verificare la disponibilità del libro e conoscerne anche altri su... Certo, sul nostro sito www.libridimontagna.net. Grazie Monica, e appuntamento anche questa volta la prossima settimana. Grazie a voi, arrivederci. Anche questa puntata della la numero 81 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e spero vi sia piaciuta, anche a nome di Martino e Luca che compongono il terzetto di questa redazione. Come trovarci, come recuperare le puntate che magari vi siete persi? Anzitutto all'archivio sul sito internet amonte.info, poi sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza, o quello azzurro all'account @abuzzo3. Per tutto il resto noi, come di consueto, ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.